La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Stiamo leggendo ancora una volta il libro del Coelet. Siamo giunti al capitolo 10, un sapiente abbastanza strano, che ci rivela come la rivelazione biblica sia molto concreta. Per la Bibbia la parola di Dio può passare anche nel momento della crisi. Vediamo alcuni temi diversi che vengono sviluppati da questo sapiente che in questo capitolo, nel 10, si sta, e anche nella parte del capitolo 11 che leggeremo, i primi 6 versetti, si rivela sostanzialmente come un sapiente che raccoglie temi vari. La stupidità, per esempio, è come una mosca, dice, caduta in un vasetto di balsamo prezioso, la rovina tutto il balsamo. E ancora dice che l'uomo non è in grado di distinguere la destra dalla sinistra, il bene dal male. Cioè, le note sulla stupidità sono frequenti, in particolare quando si parla del potere. È purtroppo frequente in ogni tempo, fa notare quelle, vedere stolti che stanno in posizioni di prestigio e lì allora questi stupidi imperversano con un'arroganza, colpendo anche il sapiente, il quale è quasi sempre in perdita e sconfitto e deve ignorare le offese dei potenti. Detto in altri termini, le sorti sociali non corrispondono al valore reale delle persone. Allora, come si può aver fiducia nella vita, nella storia? Dice implicitamente Coelet. Procede poi nelle sue riflessioni, offrendoci una lezione sui rischi, sulla vigilanza necessaria, e in questo caso Coelet rimanda sicuramente anche a proverbi che sono già noti. Per esempio, c'è il rischio di cadere nella fossa che si scava, di essere travolti da un muro che ci demolisce, di essere morsi da una serpe, di ferirsi spaccando le pietre, di farsi male tagliando la legna. Siamo sempre sospesi su un rischio, quindi. Indispensabile, certo, è la sapienza, ma la sapienza non riesce a farci scansare tutte queste disgrazie. Poi ancora sentiremo entrare in scena lo stolto con la sua chiacchiera forsennata. Sappiamo quanto in Oriente era rilevante la parola e comunque specchio sempre dell'anima, sorgente di bene e di male. Ebbene, lo stupido imperversa con la sua chiacchiera. Poi ascolteremo ancora delle altre indicazioni. Cominciamo comunque a sentire questo testo. Capitolo 10, dal versetto 1 fino al capitolo 11, versetto 6. Una mosca morta guasta un intero vasetto di unguento. Un po' di stoltezza ha più peso della sapienza e della gloria. Il sapiente rivolge il cuore alla sua destra, lo stolto alla sua sinistra. Qualunque direzione prenda, lo stolto è sempre senza cervello e pensa che tutti gli altri siano stolti. Se l'ira di un potente si scatena su di te, non abbandonare il tuo posto, perché la calma placa offese anche grandi. Un altro male ho visto sotto il sole, cioè il comportamento avventato di chi è al potere. Lo stolto viene chiamato a coprire alte cariche e i meritevoli giacciono nelle più umili posizioni. Ho visto servi a cavallo e principi camminare a piedi come servi. Chi scava una fossa vi può cadere, e chi demolisce un muro può essere morso da una serpe. Chi trasporta pietre si può ferire, e chi taglia la legna si può far male. Se il ferro si ottunde e non gli si fa di nuovo il filo, bisogna raddoppiare lo sforzo. Ogni riuscita è possibile a chi si applica alla sapienza. Se un serpente non si lascia incantare e morde, a nulla serve l'incantatore. Le parole che escono dalla bocca del sapiente gli procurano gradimento, ma quelle che escono dalle labbra dello stolto lo mandano in rovina. Se l'inizio del suo parlare è stoltezza, la conclusione del suo discorso è tragica follia. Lo stolto moltiplica le parole, ma l'uomo non sa che cosa avverrà, perché nessuno gli può predire che cosa succederà in futuro. La fatica dello stolto lo spossa, perché non sa neppure rientrare nella sua città. Guai a te, o nazione, governata da un re che è un ragazzo e i cui principi banchettano fin dal mattino. Beata te, o nazione, governata da un re nobile e i cui principi banchettano quando è il momento. Mani pigre lasciano crollare il soffitto, mani inerti lasciano piovere in casa. Per stare allegri si fanno banchetti, e il vino rallegra la vita, il denaro poi provvede a tutto. Non parlar male del re neppure con il pensiero, e non parlar male del potente neppure nella tua stanza da letto, perché un uccello del cielo riferirà le tue parole e un alato ripeterà i tuoi discorsi. Getta il tuo pane sulla superficie dell'acqua, perché col passare dei giorni lo ritroverai. Investi i tuoi beni in 7 o anche 8 modi, perché non puoi sapere quali guai ti capiteranno sulla terra. Quando le nubi sono piene, rovesciano la pioggia sulla terra. Quando un albero cade verso sud o verso nord, là dove cade, rimane. Chi bada al vento non semina, e chi sta a guardare le nubi non miete. Come ignori per quale via lo spirito vitale si fa ossa nel seno della donna incinta, così ignori l'opera di Dio che fa tutto. Getta il tuo seme fin dal mattino, e anche alla sera non dar tregua alla tua mano, perché tu non sai quale seme si svilupperà, se questo o quello, o se entrambi saranno fecondi. Tra le varie cose che abbiamo sentito, le considerazioni molto diverse che Coelet ci ha fatto, abbiamo visto per esempio apparire in contrasto una maledizione e una benedizione, un guai e una beatitudine. Ecco, li ha riservati ai politici incapaci, il guai, la maledizione, che sono simili a ragazzi, e invece la beatitudine a quelli che sono sapienti. Bene, nel primo caso abbiamo il vizio e la corruzione, nel secondo caso abbiamo l'equilibrio e la sobrietà. Alcune immagini hanno voluto illustrare allora questa duplicità di destino a cui va incontro una società che può essere retta o da un sapiente o da uno stupido. Comunque Coelet, riflettendo certamente la situazione in cui si trovava lui stesso e in cui si trovava l'uomo della Bibbia, cioè società che erano governate in maniera assoluta, dice: bisogna sempre essere cauti con il potere. Non si deve criticare il re, dice, neppure, avete sentito poco fa, neppure col pensiero, neppure quando si è a letto soli con la propria moglie, perché, dice, c'è un messaggero alato che spande la notizia. Come vedete la fiducia non è molto forte in Coelet. Tra parentesi, questa idea del messaggero alato è un tema che è noto anche nelle culture orientali, in cui si introduceva l'uccello chiacchierino, che era un simbolo che raccoglieva tutto ciò che noi dicevamo nel silenzio per portarlo nel nascondimento, per portarlo agli altri. Infine si parlava nel testo che abbiamo sentito di ciò che il sapiente conosce e ignora. Anche se molte sono le cose che ignoriamo, bisogna rischiare. Questo era gettando il pane nell'acqua, è un'espressione di cui non si riesce a trovare una spiegazione convincente, perché forse è un'allusione, ma Coelet dice bisogna investire rischiando, bisogna seminare nel terreno della storia, anche se l'esito ci è ignoto, noi siamo sempre sospesi all'imponderabile. Abbiamo trasmesso La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.